Qui voglio un grande mercato, controcorro e sono ingannato. Vivo davanti alla TV, dove la bugia che vale di più. Vivo coi mercanti di parole, della pace. Aprirti il cuore, ma mi fermo. E santoni, talebani e nuovi pagani. Vivo confuso sempre più, mi sento inadatto solo qua giù. Vivo tra i sospetti della gente, vivo tra le mie quattro pareti. Aprirti il cuore, ma mi fermo.